Vediamo. Finalmente siamo campioni, grazie a Silvio Berlusconi, il buon Sacchi ha preparato lo scudetto ritrovato, col bel gioco e senza imbroglio, di noi altri sei l'orgoglio, siamo forti, siamo fieri, siamo tutti rossoneri. Siamo forti, siamo fieri, siamo tutti rossoneri. Milan, Milan correrà, più nessun ti fermerà. Milan, Milan, il mondo intero puoi conquistare. Milan, Milan correrà, più nessun ti fermerà. Milan, Milan, il mondo intero puoi conquistare. sono 11 diavoli, chi li tocca sono cavoli. Rudi, Gullit e Van Basten, per le squadre son Batosten. 9 anni abbiamo sofferto, non abbiamo abbandonato. Poi il gran Silvio è arrivato e lo scudetto ci ha ridato. Poi il gran Silvio è arrivato e lo scudetto ci ha ridato. Milan, Milan, corre e va, più nessun ti fermerà. Milan, Milan, il mondo intero puoi conquistar. Milan, Milan, corre e va, più nessun ti fermerà. Milan, Milan, il mondo intero puoi conquistar. Milan, Milan, corre e va, più nessun ti fermerà. Milan, Milan, il mondo intero puoi conquistar. Milan, Milan, corre e va, più nessun ti fermerà. Milan, Milan, il mondo intero puoi conquistar.